Capitolo 86esimo. Fillide e Caria. Fillide, una principessa tracia, amava Acamante, figlio di Teseo, che era partito per la guerra di Troia. Quando Troia cadde e la flotta ateniese fece il ritorno, Fillide scendeva spesso alla spiaggia con la speranza di avvistare la nave di Acamante. Ma egli era stato attardato da un'avaria e Fillide morì di dolore dopo 9 giorni in un luogo chiamato Enneodo. Fu trasformata da Atena in un mandorlo e Acamante, arrivato il dì seguente, poté abbracciare soltanto il suo nudo tronco. Sotto le sue carezze i rami si coprirono di fiori anziché di foglie e da quel giorno tale rimase la caratteristica dei mandorli. Ogni anno gli ateniesi danzano in onore di Fillide e di Acamante. Caria, figlia di un re di Laconia, fu amata da Dioniso, ma morì improvvisamente a Carie e fu trasformata dal dio in un albero di noce. Artemide portò questa notizia agli Spartani, che costruirono un tempio in onore di Artemide Cariatide, da cui prendono il nome le Cariatidi, figure femminili che fungono da colonne. A Carie, inoltre, le donne danzano ogni anno in onore della dea una danza appresa dai Dioscuri. Ambedue questi miti sono in rapporto con le feste del mandorlo e del noce, celebrate in onor di Car o Caria, altrimenti nota come Meti, la titanessa della saggezza, e sono evidentemente tratti da una raffigurazione di un giovane poeta nell'atto di adorare un albero di noce alla presenza della dea, mentre 9 fanciulle intrecciavano in tondo una danza. Il nome di Enneodo, citato anche nella leggenda di Fillide Tracia che fece impazzire Demofoonte, significa 9 viaggi. Il numero 9, secondo i bardi irlandesi, era in rapporto con le noci e le noci, a loro volta, erano in rapporto con l'ispirazione poetica. Nel loro alfabeto arboreo, la lettera col C, che significava nocciola, esprimeva anche il numero 9. Secondo l'irlandese Dean Shenkas, la fontana dell'ispirazione del fiume Boyne era ombreggiata dai 9 noccioli dell'arte poetica e brulicava di pesci canori dalle squame maculate. Un'altra Carie, alberi di noce in Arcadia, si trovava presso un corso d'acqua che, secondo Pausania, conteneva la stessa strana specie di pesci. La dea Car, che diede il suo nome alla Caria, divenne la dea italica della divinazione Carmenta, Car la saggia, e le Cariatidi sono le sue ninfe nocciole, così come le Melie sono le ninfe del frassino, le Melie le ninfe dei meli e le Driadi le ninfe delle querce. Plinio si mantiene fedele alla tradizione secondo la quale Car inventò l'arte augurale. Fillide, ricca di foglie e frondosa, è forse l'umile versione greca della grande dea mesopotamica e palestinese Belili. Nel mito di Demofoonte essa è associata con Rea.